Torna alla rassegna Il Nastro Verde dell'Università di Bologna con proiezioni di cinema sostenibile. Il titolo di quest'anno è Futuri Presenti e inaugurerà il prossimo 3 marzo alle 19 al Modernissimo con la proiezione di Come se non ci fosse un domani, un docufilm che vede protagonisti gli attivisti di Ultima Generazione. Noi siamo al telefono con il portavoce Tommaso Iua, che saluto, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora Tommaso, io comincerei dal titolo di questo film perché descrive bene anche il come intendete l'attivismo, no? Come se non ci fosse un domani. Come infatti non c'è. C'era un gruppo di Bologna fantastico, i Mar Nero, che avevano fatto delle bellissime canzoni a questo tema. È il racconto di quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni e di come ci siamo in ogni maniera possibile impegnati, buttati in mezzo a una strada, ricoperti di vernice di ogni tipo, cercando di far passare un messaggio di importanza capitale in questo momento. Cioè la nostra nave madre, il nostro pianeta sta in una condizione assolutamente drammatica, assolutamente pericolosa, le conseguenze sono già qui, non è un futuro che è lontano in cui le cose andranno male, le cose stanno andando male già ora, già oggi, già ieri. Abbiamo visto, insomma, il documentario è molto chiaro nel far vedere come davanti a tanta gente che ci diceva che eravamo di allarmisti, dei catastrofisti, ma cosa pensate mai? E poi arriva l'alluvione in Emilia Romagna, arriva l'alluvione a Campi Bisenzio e via via via, insomma, purtroppo le notizie che ci arrivano ogni giorno sono molto chiare su quella che è la realtà dei fatti e su quanto sia necessario per ognuno di noi fare il proprio piccolo passo, che non è solo prendere un po' meno la macchina o risparmiare un po' d'acqua, è mettersi in gioco, assumersi i rischi necessari nel provare a cambiare questa situazione, nel provare a costruire un domani che ci sia realmente e che abbia spazio per tutti e tutte noi. Voi siete stati protagonisti di azioni anche eclatanti che già ricordavi e addirittura vi stanno dedicando una legislazione repressiva per cercare di fermarvi. Ebbene sì, addirittura, no? ci paragonano a Gandhi, del decreto anti-Gandhi, per cui qualunque tipo di protesta che non sia semplicemente stare in piedi in piazza con un cartello in mano diventa praticamente illegale, cioè si va costantemente a ritagliare, a restringere lo spazio di azione politica, tra virgolette, legittimo, ok? Tra molte virgolette, chiaramente, e questo noi crediamo sia, insomma, in un certo senso, da una parte è un risultato positivo, nel senso che smaschera l'ipocrisia, smaschera la complicità di questo governo, come di buona parte di quelli precedenti, non prendiamoci in giro, rispetto alle cause e ai responsabili colpevoli di questa situazione, cioè il fatto che continuiamo a emettere gas climalteranti a una velocità senza precedenti nella storia dell'umanità e stiamo continuando a far finta di niente, e chiunque provi a dire scusate è un problema, rischia di ammazzarci tutti, questa cosa, l'idea migliore che hanno trovato è metterlo in galera. E questo, insomma, di nuovo ci dice molto chiaramente anche a chi siamo in mano in questo momento, chi ha in mano il potere politico, il potere mediatico, il potere economico nel nostro paese. Ultima Generazione è cresciuta molto in fretta negli ultimi anni, intercettando anche molti giovani, avete intercettato una preoccupazione, un bisogno, adesso si parla anche di ecoansia inespresso? Sicuramente, se teniamo conto che dal 2019, insomma, che c'è stata la prima grande ondata di questo ultimo periodo di attenzione verso la questione ecologica e climatica. Beh, ad esempio, ho 32 anni quasi ormai e non mi considero più nemmeno giovane, nel senso sono un bimbo grande ormai, praticamente convivo, lavoro, faccio l'operaio, ma effettivamente ci sono anche sì abbastanza persone un po' più giovani, così come anche delle persone un po' più grandi. Abbiamo anche persone di 60, 70 anni che vengono con noi, a volte fanno anche azioni. Io penso che una delle cose, ecco, una cosa che ogni tanto viene da dire alta voce, una domanda che viene da porsi è: ma dove sono gli adulti? Dove sono gli adulti? Quando, non so, così come davanti alle questioni internazionali come il genocidio in Palestina o altre cose, nel momento in cui ci troviamo, io da trentenne mi trovo a dover cercare di capire come saranno i prossimi 10 anni della mia vita, del mio paese, io mi chiedo spesso dove sono gli adulti, dove sono le persone di 40, 50 anni che hanno magari in questo momento un figlio poco più giovane di me e verso cui dovrebbero preoccuparsi, che io immagino saranno a lavoro, 9 volte su 10 sono a lavoro per cercare di mettere in fila 3 pasti al giorno. Ma dall'altra parte è un po' preoccupante il fatto che sembra ci sia una parte importante della popolazione ancora un certo tipo di rigetto rispetto all'urgenza e alla necessità di fare qualcosa davanti a questo quadro disastroso che abbiamo. Guardando il trailer di Come se non ci fosse un domani, che porta la firma di Riccardo Cremona e Matteo Keffer, colpisce molto anche, come dire, le storie dei singoli attivisti che magari avevano sogni nella propria vita e che poi a un certo punto hanno dovuto fare i conti con la realtà e a volte anche accantonarli perché si rendevano conto che il futuro che li prospettava era molto incerto, appunto, il domani non si vedeva. Matteo e Riccardo hanno fatto un ottimo lavoro nel mettere in fila un po', in un certo senso, anche la nostra normalità. Non siamo assolutamente persone particolari, siamo veramente semplicemente gente che a un certo punto, trovandosi davanti alla realtà dei fatti e guardandosi allo specchio, ha deciso di provare a fare qualcosa, di provare a farla insieme, di provare a mettere insieme le nostre voci per riuscire ad arrivare a più persone possibili e avviare un cambiamento. Chloé che ballava, Simone Ficicchia che stava studiando al conservatorio e così via. Io faccio l'operaio, convivo, potenzialmente potrei fare una vita normalissima e tranquillissima, ma a un certo punto, diciamo, quello che sono stati gli ultimi anni ci hanno vuoi non vuoi costretto, non voglio dire costretto perché l'abbiamo scelto liberamente da una parte, no? Non è una questione di costrizione, è la libera scelta di libere persone che decidono di combattere per qualcosa in cui credono, di lavorare duramente, di mettersi insieme nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutti i rischi che corriamo, per portare avanti l'idea in cui crediamo profondamente, cioè la necessità di dare un futuro di dignità, di libertà, di giustizia ai 60 milioni di persone che abitano nel nostro paese. Io, Tommaso, ti ringrazio e ricordo ad ascoltatrici e ascoltatori che per approfondire, insomma, per vedere il film e poi approfondire anche questi discorsi, l'appuntamento è alle 19 del 3 marzo al Cinema Modernissimo qui a Bologna, all'interno della rassegna Il Nastro Verde. Grazie mille. Grazie a voi, a presto.